trottarci con Emma Bunton, però ecco, mettiti comodo qui Fergal, non ti preoccupare, ti diamo la sedia, bene, è tua, la sedia è comodo tua. Comodo pure. Sì, sento quasi casa. Aspetta, allora passiamo il microfono, è tutto. Allora, siamo pronti, grande debutto di Fergal su Radio Kiss Kiss Network, come stai? Io sto bene, sì. Tremando un po'. Però. No, tranquillo, se vuoi fare la pipì puoi farla tranquillamente qui, no, senza che ti scappa. C'è Anna Rita qui accanto a noi. Che io devo parlarci per il prossimo ora. Beh, assolutamente, poi c'è Anna Rita qua, insomma, che faccia fa altrimenti. Allora, vuoi raccontarci un po' di quello che ci farai ascoltare tra poco fino alle 19, una piccola anticipazione? Ah sì, adesso arriva Southside, che Southside praticamente è tutte le musiche che avresti sempre voluto ascoltare, anzi è quella che volevo sempre ascoltare io, spero anche che agli ascoltatori stessa cosa, eppure a voi, no? Sì, certo, io rimarrò qui fino alle 19 per sentire il programma, tra l'altro so che farai ascoltare qualcosa di Moby, The Golf Rap, che tra l'altro sono gruppi, comunque artisti che io seguo molto, no? Sarà bello, è proprio il fatto che questa è la tua prima giornata libero dalle 18 alle 19, che esatto. Rimani qua ad ascoltarmi, è un grande onore, grazie. No, ma l'ha detto così, tanto per dire, perché poco fa insomma saltavo fuori corridoio della Radio Kiss Kiss, andiamo via ora prima, cioè, è vero. Vabbè, no, scherzo chiaramente, va bene. Ok, allora ragazzi, Raul ed Alex tornano domani pomeriggio sempre dalle 4 alle 6, tra un po' Fergal con Southside, nuovo programma. Vi do appuntamento a domani, grazie a tutti quelli che hanno mandato messaggi, insomma grazie anche a quelli che hanno partecipato, ahimè, con la dottoressa Filippa De Maria a quell'angolo, certo, tristissimo, che torna comunque domani. Beh, ringraziamo anche Shaggy che è stato con noi in diretta telefonica in Italia in questi giorni e quindi ci ha un po' raccontato quello che sta facendo e quello che farà, e noi ritorneremo appunto domani, quindi in bocca al lupo Fergal, andrà tutto bene. Ragazzi, da Alex e Raul, beh, buona serata. Ciao! Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Sono le 18, torna l'appuntamento con le ultime notizie. News. In primo piano sempre. Ed è tutto per il momento, prossime news alle 19. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh, you're listening to Southside on Radio Kiss Kiss Network. Saremo insieme per i prossimi 60 minuti ad ascoltare la musica più bella del momento e anche alcuni vecchi pezzi. Allora voglio salutare Giancarlo che è in regia questo pomeriggio. How are you? Ok, iniziamo con un bel pezzo di Moby e guarda caso, questo si chiama Appure Southside, riregistrato con Gwen Stefani di No Doubt. See myself in the foreign home. The light come over, no. I see myself in the pouring rain. I watch hope come over me. Southside. Southside. Ramesses, Colossus. Ramesses, Colossus. That's Indico from Moloko, e Moloko praticamente è Roisin Murphy, una cantante irlandese che insieme con Mark Bryden, il suo ex partner, ha messo su questo bellissimo brano. E lei dice che proprio il suo eroe di sempre è il suo partner nel gruppo Mark Bryden, perché la vede sempre a lavorare e che riesce a fare le cose che vuole e che praticamente gli insegnate a cantare e ha fatto proprio bene. E adesso on Southside arrivano i Stereo MCs, non lo so se vi ricordate, praticamente sono quelli di Connected. Sono 9 anni che sono passato ed eccoli tornati con Deep Down and Dirty on Southside. Cause this day I found my friend is inside my own mind and soul the kid. And this spirit is letting go and letting the power know. But this ain't the time and this ain't the place to test me. This ain't the face to judge, don't stress me. This is the place, this is the time. My enterprise and this my rhyme. Great.

exact. Got satisfied friends around track who've already started planning where to set the counteract. It's been ready for years, but see, it's all about timing. You can't expect to reach the top without a little climbing. Oh yeah, that's Dirty Beats, that's Ronnie Size with the represent. Loro hanno vinto il Mercury Music Prize alcuni anni fa ed eccoli qua con il loro nuovo singolo Dirty Beats. E questo è proprio un grande hit. Andando avanti con la musica on Kiss Kiss Network with Southside, the music that you have always, sempre, sempre voluto sentire. Andiamo con questo gruppo tedesco, anzi questo artista tedesco di nome Raso Hara. L'album si intitola The Last Legend e praticamente l'hanno paragonato a Nick Drake, Tricky, Lenny Kravitz, Wycliffe Jean e Prince. Allora è da ascoltare e da uccidere tutti voi ascoltatori. Questo bel brano si chiama Reality, il suo nuovo singolo, and you're listening to it on Southside. Don't wanna think reality. All I wanna is get fucked up and see our blood. It's not the first time I feel this way since I gotta come through without you. Station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. I loved you more than me. That's Goldfrapp and Human. Praticamente questo cantante bellissimo collaborava una volta con Tricky e ha deciso di fare sue strade da solo con molto successo, i Goldfrapp. Allora ragazzi, abbiamo deciso ogni settimana, praticamente facciamo ogni giorno, anzi facciamo qualcosa di particolare, qualcosa speciale, e di lunedì abbiamo deciso di guardare un vecchio brano, un po' la storia di come è nato questo brano, e oggi parliamo di un vecchio brano storico che ha passato 3 settimane al numero uno nella 1970. Voi le conoscete tutti quanti attraverso Lenny Kravitz, che ha fatto il bel cover. Sto parlando di American Woman, allora praticamente del gruppo Guess Who, un gruppo americano, no, che sto dicendo canadese, che l'hanno concepito ad Ontario quando stavano un po' negato suonando così, e hanno trovato questo ritmo, hanno improvvisato tutti insieme, è uscito questo bel pezzo, e dicono non è assolutamente contro le donne per niente, è che stavamo in giro per tutta l'America, New York, Chicago, Detroit, abbiamo visto queste donne e che piacere tornare a Chicago. Get away from me, American woman. Beach from Tahiti AT on Southside on Kiss Kiss Network. E prima di quello avete sentito American Woman by The Guess Who. E lunedì prossimo faremo ascoltare un altro grande pezzo. Raccontiamo le notizie a proposito di quello. E se voi volete mandare qualche suggerimento, il mio indirizzo email è fergal@kisskissnetwork.it. Aspetto vostre notizie e anche domande sulla musica, qualunque cosa. Ecco Kimo Petrol. Kimo Petrol on Radio Kiss Kiss Network. You're listening to Southside. Tutte le musiche che avresti sempre voluto ascoltare from 6 to 7 ogni giorno dal lunedì a venerdì. My name is Fergal Cavan, alla regia abbiamo Giancarlo e stiamo ascoltando proprio la bella musica forte. E adesso andiamo avanti con un gruppo proprio fortissimo. Si chiamano i Radiohead, che sicuramente le sapete, avete pure ascoltato Kid A, l'ultimo album che è uscito l'anno scorso. Però sta per uscire il nuovo album, esce proprio il 4 giugno di quest'anno, già pronto a mazza. E c'è il tipo Humphrey Littleton, che sarebbe un vecchio jazzista, che suona sull'album e dice che sì mi piace molto il Radiohead. La prima volta che l'aveva sentito quando ha suonato sull'album, c'ha tipo 70 anni questo tipo, e assomiglia il brano a Whiter Shade of Pale dai Procol Harum. Quindi possiamo aspettare proprio delle grandi cose da Radiohead quando esce questo album il 4 giugno. Too much, head comes off. Interrompiamo le trasmissioni con un'edizione straordinaria del nostro radiogiornale. Si tratta di un ennesimo episodio di cronaca che si è risolto positivamente. L'ha visto, ha cercato di rubarlo e poi l'ha pagato. Protagonista un meraviglioso orologio di cristallo Swarovski e una signora colpita da un raptus. La signora si è difesa sostenendo che non vedeva l'ora di avere uno sfavillante orologio di cristallo Swarovski. La proprietaria del negozio ha ammesso che, effettivamente, gli orologi Swarovski vanno a ruba. Swarovski, tutta la magia del cristallo. Yes, yes. L'agenzia di moda New Faces, con sede a Milano e Bologna, seleziona aspiranti volti nuovi da inserire nei settori moda, televisione e pubblicità. Chiamaci subito per il tuo provino gratuito al numero 039-3931. 039-3931. Yes, yes. Sì? Pronto? Concorso Digital Gusto Amorositas? Con che? Ma lo sa che ore sono? Sì, è l'una di notte e so anche cosa si vince. Ogni giorno t-shirt, lettori DVD ed MP3 e con l'estrazione finale tante fotocamere digitali. Insomma, ho vinto! Vinto un corno! Sveglia! Il numero giusto è 02 44 88 6 88 6 oppure vai sul sito www.morositas.it. Concorso Digital Gusto Amorositas. Digiti giusto, vinci di gusto! Concorso. Ancora? This is the Kiss Kiss Network. Southside. The loudest. The most powerful. That's Dandy Warhols on Southside with the song called Godless. You're listening to Radio Kiss Kiss Network. Oggi è il 2 aprile del 2001 e guardiamo un po' il calendario, un po' la storia, che è successo nella musica, nella storia di musica proprio il 2 aprile nei tempi passati. Allora, nel 1939 è nato Marvin Gaye a Washington DC. Il suo nome vero è Marvin, almeno era Marvin Pence Gaye. E poi dopo 44 anni è 364 giorni, cioè il primo aprile del 1984, Marvin Gaye è stato ammazzato a pistola da suo padre, è stato sparato dopo un litigio a casa sua in Los Angeles, dove stavo abitando. E quindi questo è quello che è successo nella storia della musica nel 2 aprile, il giorno 2 aprile nel passato. E facciamo ascoltare adesso un bel pezzo di Marvin Gaye. Questo pezzo si chiama I Want You, non fatto da Marvin Gaye, è un cover fatto da Madonna insieme a Massive Attack, che si trova sull'album Inner City Blues. Bellissimo, I Want You. I want you the right way. I want you, but I want you to want me too. Want you to want me, baby, just like I want. A new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Hmm. Like a Feather on Southside on Kiss Kiss Network, and you're listening to Fergal Kavanagh con la regia Giancarlo, e siamo quasi quasi alla conclusione. Però prima di andare vi faccio sentire i Manic Street Preachers, che praticamente hanno fatto uscire il loro nuovo singolo ultimamente, So Why So Sad, anche all'album Know Your Enemy, però purtroppo nonostante tutta la promozione non è andato il numero uno, spiace. so why, so sad, così tanto triste. Perché così tanto triste? È praticamente perché il singolo non è entrato al numero uno come speravano loro, e nemmeno l'album. Comunque sono i Manic Street Preachers, e con un bel video che hanno girato sulle spiagge californiano, e sicuramente venderanno tanti con questo brano. Ok, thank you everybody for listening to Southside questo lunedì pomeriggio. My name is Fergal Kavanagh, c'era Giancarlo Raiola, grazie a te, sulla regia. E dopo la notizia arriverà Greg con I Love America. Io vi do appuntamento domani alle ore 18, stessa frequenza, Kiss Kiss Network. E vi ricordo che mercoledì vi faccio sentire pure l'intervista che abbiamo fatto con i Placebo quando hanno suonato qua pochi giorni fa a Napoli. Ragazzi, sì, è quasi l'ora di andare, infatti è arrivato. Do Fergal Kavanagh, ringraziando tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Network. Vi do l'appuntamento a domani. Why so sad? Don't be sad. We'll be back tomorrow. Alla prossima! Southside. Per un'ora Fergal si proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, l'appuntamento con le ultime notizie.